Questo file è stato scaricato dal canale Telegram Zodi 105 Channel. Per altro materiale, cerca su Telegram Zodi 105 Archivio Bot. Jack Radix. Che voce che c'è questo qua, oh. Fa invidia, cioè devi impostarti per forza quando disannunci il disco. Ah sì? Era Jack Radix. Ah sì? Con numero. Allora ti senti un po' meglio, no? Ti mette un po' in imbarazzo, un po' a disagio, uno con un vocione così, no? Non è d'accordo? Cosa? Senta, cretino, io non ho tempo da perdere con lei. Ecco, allora chiami qualcun altro, ci sono un sacco di radio. Io ho un programma da portare avanti. Ecco, quindi... ho un programma serio da portare avanti. Certo, quindi. Se lei dà 3 milioni al mese per venire a lavorare, io non ci posso fare niente. Io non pago per venire qua, non è vero. Io lo so, cioè questo qua da 3 milioni al mese. Senta, oggi parleremo veramente di un sacco di cose interessanti. Cos'è che mi vuole dire? Forza! Bisogna dire una cosa molto importante. Tu, uomo. Tu, donna. Tu. Mazzoli. Ti senti della missione? Non so che cos'è la missione. È una cosa un po' complicata, adesso io vorrei spiegargliela, ma siccome lei è un po' scemo. Ma come? Non è vero che sei scemo? Ha un grado di intelligenza inferiore a alla suola delle mie scarpe. Dai, me lo spieghi. Sto fondando un club, il club del teletrasporto. Ah. E dopo li spiego, Va bene, va bene, disco. Abusa. Rischia un po' di più. E se c'è il lupo, rischi tu. È veramente Maranza, ma Maranza vero. Maranza Wanza. Questo da doppio braccio fuori dal finestrino. Due dadi pelosi, tre cornetti antisfiga. Sedili con le biglie. Due luci da supercar ci vogliono, davanti e dietro, alettone e sei precisa. Sempre così. Allora è vero, Cosa? È vero, eh? È vero cosa? Caro Rigo, hai comprato il grattegibbia anche te? Sì, ma perché mi dovete stressare? Mi avete obbligato a spendere 156.000 lire per comprare questo grattegibbia. Ma i 3 miliardi me li date adesso? No. Vai, ci vuole un po' di tempo. Ma 156.000 lire? Ma i 3 miliardi! E lui li ha comprati un po' di più. Ma costa 2.000 lire il biglietto, aveva detto. Sì, c'è uno sport che dice... No, lei è un farlocco allora, prende in giro. E le tasse sono a parte. E quanto c'è di tasse? L'800%, non lo so io. Cazzo, vado via Ugo. Cosa succede lì? Deve fare il provino Ugo oggi per la mia nuova radio. Ah, il famoso DJ. E allora è venuto qua. Certo, anche i cani c'hai in onda? Vabbè, con tutti i cani che ci sono in onda e tu l'ho capito, scusi, Adesso vorrei dire però. Certo. Mazzoli. Dica. Sapete che Ronaldo è stato denunciato dalla Lega Tercolisti? Ah sì? È alzato un po' il gomito ultimamente. Ringo! È simpatico, Guarda, barzellettiere! Peccato che la sai l'ultima, è finita! Se no era preciso, Tra poco parliamo di sesso in internet. Ho trovato un sito Paiura Vero dove si possono comprare delle donne d'alto bordo. Con tutta la spiegazione, le varie posizioni che fanno, se ti danno il bacio, questo o quest'altro. Ne parliamo tra poco, le interessa l'argomento, Sì, ma è a lei che non può interessare. Perché c'ho la X. Sì. Certo. Dai Gilberto, dai. Ancora. Dai Gilberto. Lubega. Mambo number 5 su Radio 105 in tutta Italia. Certo che internet veramente non ha limiti. Ieri sera sfogliavo un giornale e a un certo punto mi blocco su un articolo che parlava di donne in vendita attraverso internet. Lei ne sa qualcosa, visto che so che è in linea? Oggi cosa fa? Tutto il giorno in onda? Sono socio di maggioranza. Ecco, infatti. C'è sta pagina web dove è possibile scegliere una donna. Ma cos'è una pagina web? Sì, la pagina principale. Non è quello che ha fatto Love in Time, eh? È un'altra cosa. Web, ma che un cretino. Comunque, dov'è possibile scegliere sta donna ad alto bordo per passare piacevoli ore a casa proprio in albergo? D'alto bordo, della piscina. Basta cliccare la foto della donna che vi piace di più e vi apparirà una scheda precisa con tutte le possibilità che avete con la signorina. Mi hanno detto che lei ha cliccato, eh? Non ho cliccato! L'unica cosa che ho comprato in internet io è il tappetino per il mouse con il paperino. Sì. Comunque c'è scritto tipo posizioni, tutte le varie posizioni c'è scritto sì o no. Cioè se fa quella o quella A o quella I, hai capito? Bacio se bacia o non bacia. Preservativo sì o no, se fa quello piuttosto che quell'altro. Insomma, tutto un elenco lunghissimo, è incredibile. Una volta dovevi andare in Viale Zara, per esempio, a fare i giri con la macchina tre ore. Le famose vasche, i famosi tantur, presente, no? È vero che lei sentiamo. È l'unico. Glielo posso dire. Ma me lo dica a sto punto. Nel quale la foto lei era davanti e la donna era di dietro. Cosa sta dicendo? È vero? No. È vero, non è vero. È vero. Lo dica palle, è vero. Ma che cosa? Gisci e vinci. Gisci e vinci. Chiamaci subito al 1-6-4-1-6-7-8-2-6-0-4-4. Ha cliccato sulla foto di Mariangela di Fantozzi lei. Ma che eh? Cosa dice? She's on the street. One, two. She can't sleep. Check, check. She's afraid to dream. Can you feel the funky sound? Poi c'era. Put your hands up in the air. Wave them round like you just don't care. Wyclef Jean, Bono Vox, New Day, su Radio 105 in diretta in tuta. Ma tuta? Eh sì, proprio tuta. Ma tuta, tuta, tuta. A parte quando c'è il temporale in tutta Italia. Fantastico. Tra poco parliamo di un sondaggio che riguarda gli uomini tra i 20 e i 35 anni, quindi ci sono proprio in pieno, sono in full target. E pare che l'istituto di ricerca Abacus ha condotto un'indagine in tutta Italia appunto per sapere quali sono le passioni degli uomini, cosa pensano delle donne e qual è la tua scala di valori. Le vediamo insieme tra poco. Volevo intanto ringraziare un ascoltatore che scrive: ciao Donatello, deve essere un piacere avere un naso come il tuo e sentire al mattino il profumo di caffè, puntini puntini, in Brasile. Bastardo. Poi io non ho capito se la X ce l'hai sulla faccia e quindi hai un gran nasone. Chiariscimi le idee, ciao bell'uomo, un bacio, forza Gibba Serena. Allora, già col fatto del nasone non ti saluto. Forza Gibba, proprio hai esagerato la grande, quindi la risposta è. Giochiamo, Mogisci, vinci, va. La yeah. X ce l'ha davanti. Bastardo. Mogisci e vinci. Zitto. Attenzione. Oh, cosa c'è? Il mondo senza uccelli non sarebbe la stessa cosa. Tu sei imparentato con Jimmy, secondo me. Io te lo dico onestamente. Ma giochiamo, Mogisci e vinci. Chiameremo Luca per cominciare e poi Nuoro. Fantastico quel telefono, Gibba. Ti è rimasto il filo in mano con la cornetta. Senti, prima ho dato un calcio a Codazzo, perché Codazzo ha il vizio di dare i pugni sul vetro. Mi dà un fastidio pazzesco, ma deve avere le gambe di ferro. Mi sono spaccato un piede. Porca miseria. E c'è un gioco che amiamo tutti noi qua a 105, quello di picchiare Codazzo. Ah, un male. Attenzione, Luca in corso. Pronto? Pronto? Sì. Buongiorno. Questo secondo me si è reso conto che c'era il Mugisce Vinci, non ha mugito, ha sbattuto giù. Mi dispiace. Un cretino, vabbè, è un peccato. Silvio, un bacio, sto scherzando. Ciao bell'uomo, seri Silvio da Luca. Vabbè, andiamo avanti, dai, Nuoro in corso, attenzione. Mina Sardegna, andiamo in Sardegna, andiamo in Sardegna. Attenzione, se Mugisce vince e se Mugisce in maniera artistica può partecipare al premio finale. Vabbè, esagera adesso. Ma così, sai com'è? È martedì, spacchiamo tutto. Francesca, amore. Ma che brava sei stata! Cioè, al posto dello schioccare delle dita usavi un campanellino. Sì, bella mucca. Sei troppo sei veramente la donna più avanti della terra. Mi sa che hai già vinto, sai. Anzi, facciamo una cosa, premiamola subito, eh? Ok. Ha già vinto il premio della Taizu, no. Dai, è già fatto. È troppo brava. Niente, devi aspettare venerdì, amore. Saluto? Ma anche sette, se vuoi. Allora, voglio salutare il mio ragazzo, Pier Mario. Sono già geloso. La sorella Enrica e tutti gli amici e le amiche. Va bene, amore, io pensavo tu fossi sfidanzata e volessi sposarti con me, però vabbè. ti avrei chiamato, pensa, per tutta la vita, Francesca. Con l'H finale. Ma amore, è un peccato che sei fidanzata. Vabbè. È un peccato che l'Empire State Building si stacchi dal suolo, arrivi proprio sopra la casa del tuo fidanzato e non ce l'avrai più. Però sono cose che succedono. Un bacio, amore mio. Ok, anche a te. Ciao Francesca. Ciao. Ciao, amore mio. Ciao. Ciao. 105. Perché sono tutte fidanzate le donne? Perché non ce ne lasciano una almeno? Tutte quelle simpatiche che fanno dei bei muggiti, eccetera, sono sempre fidanzate. Infatti mi dicevano, quando una donna è carina, simpatica, ma senza fidanzato, significa che ha dei problemi. Lasciala perdere. Sarà così. Siete su Radio 105, ci sono i Luna Pop, questa è 50 Special. Skin, la cantante degli Scalcanensi. È lì con lei? Vieni su. C'ha la bocca grossa lei, eh? Sembra una porta aerei. You follow me down. È proprio il titolo giusto. Mi seguirai giù. Veramente incredibile. Ma tutte le donne la vogliono, è incredibile davvero, eh? Incredibile. Certo. Senta, allora, vediamo velocemente questo sondaggio che hanno fatto tra i maschi che hanno tra i 20 e i 35 anni e gli hanno chiesto quali sono le vostre passioni. Al primo posto le donne e l'amore, che teneri, eh? Al secondo posto viaggiare partendo senza meta. Al terzo giocare a calcio con gli amici, poi inebriarsi con gli amici, lavorare, fare carriera, tifare allo stadio, essere molto elegante. Tifare allo stadio, ti rendi conto? Tra le proprie passioni. Vabbè, insomma, poi in conclusione un 13% ha risposto non fare nulla, proprio nulla. Poi c'è che cosa pensi delle donne? Al primo posto la più importante è la mamma, poi prede da conquistare, un mondo sconosciuto, amiche mai, il miglior amico per un uomo, belle e impossibili, semplicemente l'altro sesso. Il miglior amico per un cane è Mazzoli. Io? Sì. Certo. E poi per chiudere c'è qual è la tua scala di valore? Al primo posto l'amicizia, poi la vita. La mia regola di vita è non rimandare a domani e poi il lavoro migliore è il posto fisso oppure il libero professionista. Non male, dai. No. E invece per me? È vero che la sua passione principale è quella di dover sistemare ogni giorno il suo naso in casa. No, non è vero. Perché non sa mai come metterlo? 60 metri quadri sono pochi, ha ragione. È vero che lei dorme un'ora a notte perché le altre sette gli servono per sistemarsi bene? Se te la smette, sto disco qua è spettacolare. Ascoltiamo insieme. Mi dà un bacino telefonico? Ehi, sono mica un tuo amico io, eh. Quando parte, scusi, eh? Adesso, Robert Miles. Magari fossi in una bottiglia, quell'infame. Mi sta sputtanando in tutta Italia con la storia del mio naso. Il mio naso è così bello. Nasone! Ma smettila! Come nasone? Sì? Guarda, io... Io piango adesso. Vattene! Silvia? Sì? Da Lecce? Sì, da Lecce. Recchia di gomma, baffo di copertà, un pigio cumplan. Eh? Sono preciso o no? Sì, uguale. Ma guarda che sei proprio cattiva, eh. Cosa ti ho fatto io di male? Eh? No, tanto simpatico. Ma amore, senti, per caso ti è mai uscito il mio naso dalla tua autoradio o da qualcos'altro? Sono ancora qui. Com'è che hai detto prima? Me lo urli ancora, dai, che mi è piaciuto. Nasone! Simone! È stato Gibba o no? Eh? È stato Gibba a dirti di dire sta cosa? No, figurati. Senti tesoro, io ti regalo Cristina Aguilera. Grazie mille. Perché non so, sono stufo, sai, dormi a casa mia da 15 giorni, due palle. Cioè, baciami qui, no, baciami qui. Scaldami l'ugola, ma basta. Guarda, te la lascio se vuoi, non so. Fratello! Ancora, ma basta! Non mi ascolta neanche. Ti regalo il CD e basta, va bene? X. Poi? Basta. Ecco. Però oggi abbiamo finito. Grazie. Ma grazie di cosa? Cioè grazie di cosa? Mi ha offeso fino adesso. Grazie Silvia. Ma grazie un corno. Dai, grazie agli altri. Ecco, infatti, grazie a qualcos'altro. Grazie a tutti. Grazie. Ma grazie. Grazie mille. Ma pensa a te, ciao Silvia. Grazie. È un peccato. Cosa? Lo saprai presto, sai, Boeing 747 passano da Lecce. Vabbè, insomma. Ragione. Basta! Ciao! Muovi il nasone de qua e de là, vai Donatello, non te ferma. Ormai lo conosco a memoria sto jingle, l'ho messo anche in discoteca, la gente era felicissima, ha detto no, metti solo il jingle, il disco non ci piace. Bastardi. Cerpiotta, er super caffone, ho Radio 105. Sento il fischio, folla, mescia, mischio, il DJ e la folla. Se corre il rischio, vai Donatello, non te ferma. Sì. Piotta e roba coatta, super caffoni. Il sole integrale, al mare un balcone, ho la classe serale dei super caffoni. Sei uno zarrone, Emanuele Fantoni, appella. Dai la grattata pure al pantone. Signori, io sono mister, ok, il rapper giusto per lui. L'altro giorno abbiamo fatto l'elenco delle cose che bisogna fare per essere un vero super caffone. Coatto. Au. Au. Ignorante, con la bronzante, abbondante, fra le mutande. Il super caffone, eccolo qua. Lui è troppo fuori, mi ricordo alla festa di MTV che ha fatto a Bologna. Troppo numero uno. E lo vedi, dici, ma non può essere lui, è troppo regolare. Invece sotto sotto è tutto irregolare poi. Un po' come me, insomma, vedi le X, le cose varie. Si chiama Piotta Super Caffone su Radio 105. Noi siamo pronti per giocare a un gioco fantastico, incredibile. È bello perché, insomma, sai, sono iniziate da poco le scuole e diciamo in tutte le lezioni si parla di questo gioco incredibile che da anni esiste. Diciamo dal periodo paleolitico, insomma. Un tempo si giocava al Mugisce Vinci in un altro modo, però era quasi simile il gioco. Da una caverna all'altra, con un filo e due sassi, la gente si chiamava a vicenda, bisognava rispondere con un mugito e il premio era diverso, si vinceva una pelle di dino, eccetera. O no? A te ti avrebbero tirati i sassi. Mugisce Vinci. No, l'ho rotta ancora, no. Allora, chiameremo Milano e Catanzaro. Se volete visitare il sito Taizu per vedere quali sono i premi che noi regaliamo a fine settimana, l'indirizzo internet è www.tiezo.com. Andate in consigli, chi veste poi Taizu e c'è la mia foto. Sì? Sì? Sì. No. Pinguino. Casino, eh. Pronto? Allora? Chi è? Giuliano? Porca miseria, sono tre ore che ti aspetto, eh. Pronto? Pronto? Giuliano? Sono tre ore che ti aspetto. Dove sei? Oh mamma. È un peccato per te. Sei rovinato, Giuliano mio. Datemi una pistola. Sparati lì dove avevi una volta le parti sferiche, perché non le puoi più avere. Ascolta Nello, mettili via una curiosità. Già parti male, comunque. Abbassa la radio. Abbassa la radio e riparti male di nuovo. Poi? Ecco. Dimmi. Niente, una curiosità che ho da 100 anni. Sì, tu certo. Ce l'hai una mucchina? Una fidanzata, dici? Ogni tanto vai a ballare sopra le mogli di un letto. Ma cosa stai dicendo? Perché ti vuoi fare la mia fidanzata se no, mai l'avessi? No, volevo sapere, la tua fidanzata, una volta che hai finito con la X, cosa ci dice? Adesso mettimi il naso. Sei un bastardo. Senti, allora, ti piace 105, immagino, giusto? Come? Ti piace questa radio, no? 105. Cazza. Ecco, allora, se non vuoi che arrivino i nostri tecnici adesso, in questo momento, e ti stacchino dalla tua autoradio la nostra frequenza, e quindi non lo potrai più ascoltare, dovrai muggire da adesso fino alle 6 del pomeriggio. Bravo, parti così, noi ogni tanto alziamo il cursore. Se non stai muggendo quando ti chiamiamo a sorpresa, tu per tutto il resto della tua vita non potrai più ascoltare 105, ok? No. Vai, parti se adesso. Fare il meglio, dai. Vai, parti, vai. Vai. Vai. Muggisci, vai. Ok. Tanto noi chiamiamo Catanzaro. Chiamiamo Catanzaro, forza. Lo teniamo sott'occhio questo, eh. Mi sa di furbacchione. Fidanzata, mica fidanzata, cosa fai con la X? Sì, sì. Se questo non muggisce fino alle 6, giuro, vado io personalmente a staccargli la frequenza. Shh, Catanzaro in corso. Vabbè. Pronto! Controllando Giuliano. Aspetta. Va bene così, Giuliano. Continua così fino alle 6, tre quarti d'ora. Ok. Laura! Ehi! Che bordello, che casino, Mara. Mara, non se ne può più. Era una mucca imbizzarrita. Basta, Giuliano, lo sentiamo dopo. Laura! Ehi! Ciao! Ciao! Che bella voce che hai! Grazie! Mi piace, sai? È che Catanzaro è un po' lontano, ma sei lì col fidanzato, amici o cose varie? No, sono con mio fratello e mia sorella. Ma che grandi, un applauso anche ai tuoi fratelli e sorelle, eccetera, eccetera. Bravi! Ragazzi, bravi. Io vi mando tre magliette a sto punto. Grazie. E tanto paga la radio. E... Senti, io volevo, siccome ieri ha vinto il grande Mila, avantieri anzi. Oddio, non dire queste cose. Ho fatto un muggito per Giba. Ma... Milan! Madonna, questo t'ammazza! Aspetta. Scusate, ma cioè, ci sono dei problemi di linea di telefono. È caduta? Mi pare. Non la sento più. Pronto? Laura? Sei un bastardo. Sei un bastardo. Laura! Ehi! Ah, ecco. Non dire mai sta parola, ti prego, in onda. Sai che per lui. Senti, amore, ti mando allora tre magliette e parteciperai anche tu al concorso finale del Muggisce Vinci. Va bene, grazie. Ok, ciao tesoro, un bacio. Ciao. Sentiamo Giuliano se sta ancora muggendo un attimo. Fino alle 6, mi raccomando. Ok. 105, 105. Sto contando i giorni. Mi licenziano qua, di fisso. Si può far così tanto casino? Alle 5 del pomeriggio? È possibile? No. Giuliano sta ancora muggendo. Sentiamo un attimo se Giuliano sta muggendo. Giba, alzami Giuliano, fa sentire. Sta morendo. Un po' asmatico. Siete su Radio 105 in tutta Italia. Vi facciamo godere fino alle 6. Ma con chi ce l'ha? Ma lei non può aver sempre lì qualcuno. Vieni, vieni su. Con chi ce l'ha? L'altro giorno è venuto Melanie e quella vieni su. Poi viene quella lì e vieni su. E poi? E poi viene quell'altra. E lei? È incredibile, vieni su. E lei? Poi in tranquillità io ti dico vieni su. E tu in nonchalance, in tranquillità mi dici no, lo voglio venire su. Che problemi che ha lei, eh? Tra poco parliamo di un articolo molto carino. Titola: dimmi che donna ti piace, io ti dirò che uomo sei. Eh? Oh! Pronto? Pronto? Pronto? Ancora, pronto? Pronto? Pronto? Basta! Pronto, signor Jimmy, pronto? Pronto? Che cacchio è? Buongiorno, indiscusso creatore del mondo, sì. Padrone dell'universo, sì. Invincibile supereroe, sì. Salvatore dei salvati. Ho capito, cretino, aspetta, sta uscendo la saliva della cordetta, che cosa tipo? Vuole? Buongiorno, sono il signor Cassa, del concessionario Car Cassa. Ecco. Io sono uno dei tanti concessionari che ha preso in licenza il marchio Jimmy Moto, ah, la mente, sì, delle sue fantastiche vetture, le Jimmy Car. Belle, belle, sì, è belle, sì, c'è il modello geniale, sì, quello... Quello arena romana, per il più bello, è bello, però. E quindi, scusi? Allora, ecco lui, lo chiamavo per, e lo faccio finire. Guarda il modello Arena Romana, eh? Sa. Mi è costato molto affittare un capannone di oltre 20.000 metri quadrati per farcene stare solo 4. E beh, un e po' grande. Ho capito, ma voglio dire, devo lavorare, qualche sacrificio dovrà farlo. Ma quanti padre dei padri, io non la chiamavo per questo. Il problema è un altro. Ha presente i leoni gonfiabili che ha dato in omaggio con i la leoni gonfiabili, sì. Deve esserci uno sbaglio. Perché sono vivi? Come vivi? Guardi, ma vuole, lei si sbaglia. Lei mi deve ascoltare. Lei si sbaglia. Poi mi dice, ma la signora la mette male. Lei mi deve ascoltare. Mi stanno sfogando. Ma dov'è? Mi sta sentendo male. Ma Jimmy, gli ha messo giù il telefono. È caduta la linea, incredibile. Ma non è caduta la linea, è un corpo. Tutto quello che pago di bollette. Ma questo qua c'è dei leoni veri dentro il concessionario. Ma faccia qualcosa. Cosa fa? Ci sono le vie, che dico, ma oggi sono le, come ma se lo fa con la bocca? Ci sono le vie disturbate. Jimmy! Jimmy! Ma c'è il tipo del concessionario con i leoni veri! Pronto! Avete per un attimo abbandonato tutti i problemi? Avete immaginato la stessa cosa che ho immaginato io? Automobile cabriolet, viale alberato, tu con la tua lei o tu col tuo lui? O tu da solo, io ovviamente. Macchina scappottata, sottofondo sto disco. Che figata, eh? Quell'arietta calda, che ormai ci siamo dimenticati perché il tempo fa schifo. Porca miseria, guarda che smette di piovere, barbone. Vabbè, Savage Garden, che sono stati ospiti dell'appuntamento del Night Express, quello radiofonico, perché ovviamente quando fanno quello televisivo il Mazzoli non c'è. Problemi di grandangolo, Italia 1 non c'ha il grandangolo abbastanza grosso per riprendere il mio naso, quindi non sarebbe venuto perfetto, no? Cosa c'è? Dimmi. Cosa fai stasera? Non lo so, ieri sera, sai, ho passato una seratina carina. Non interpretala male, eh? No, immaginavo che non fosse un invito intimo chick to chick, tête à tête. Io ieri sera ho passato una bella serata, ed è vero, perché c'ho qua la tesserina anche, affittandomi una bella videocassetta da Blockbuster, bello preciso. Allora, quella carina, no, non credo, non è lei. Chi è, Jimmy? Lei la conosce? Allo? Vieni su. Anche lei, no. Ma è appena entrata in programmazione, è già giù? È incredibile. È già lì? È veramente incredibile. Caro Jimmy. Cosa? Sono Paolo da Bassano, sì. Quello tornato dalla Tunisia col cagotto. Sì. Avevi ragione, ho visto una foto di Mazzoli e sono diventato stitico. Questo è un fax, sì. Questo perché? Perché dobbiamo ricordare l'angolo di Jimmy. Ha ragione, allora, se avete un problema d'amore, di lavoro, di esistenza o qualsiasi altro di Mazzoli, di naso, eccetera, mandateci un fax per l'angolo di Jimmy, che apriamo tra poco, allo 02 655 1245. Io avrei sto articolo lunghissimo da leggere. Non ce ne frega niente. Come al solito, cioè io mi porto avanti le notizie per 6 giorni, hai capito? Colpo del pezzente. E con qui? Naso dritto. E il risultato? Sei morto. Lo Zodi 105 è solo su Radio 105. Lo Zodi 105. Colpo? Colpo del disc jockey che non sa fare il disc jockey. E quindi cosa mi succede? Mazzoli. Canta con me, dai. Canta con me, dai. Cosa c'è? Pronto? E noi tra. Oh, I try. Mi piace di più l'inglese che c'ho, è incredibile. Sì, certo. Sembra che l'inglese l'ho inventato io. E invece l'ho inventato io. Ecco. Quindi milioni e milioni di americani sbagliano nella pronuncia, giusto? È incredibile. Vero? Mi sa che devo aprire una scuola. Ah, certo, per gli americani. Cosa ride quello? Scusi, c'è qua una persona, non so chi sia. Ho capito, ma cioè non si può stare in studio in più di due. Dica qualcosa. Pronto? Senta, c'è l'angolo di Jimmy. Che è zitto, sia zitto. Ciao a tutti, io sono Giorgio Mastrota. Volevo dire che devo veramente tutta la mia carriera a Jimmy. Jimmy, certo. Devo salutarlo, devo tutto a lui. È lui il grande scopritore di talenti commerciali. No? Ciao, sono Kay Rush. Anch'io devo il mio successo a Jimmy. Hi Jimmy, this is Bill Clinton. Ciao, sono Alexia e anch'io devo il mio successo a Jimmy. Beh, è incredibile! Benvenuti nell'angolo di Jimmy! Quanta gente lei conosce, eh? È incredibile! Quanta gente le deve! Il successo, è vero o no? Siamo quattro ceramiste donne al lavoro. Cos'è, un fax? Ci chiediamo, no, è un papiro, cosa vuole che sia? Noi abbiamo due problemi. Abbiamo il seno troppo grande. Beh, non è un problema. E poi un collega che non riesce a lavorare per le troppe distrazioni. Certo. Cosa devi fare, Francesco? In tranquillità. Oh, benissimo. Chiami un tuo amico anestesista. Sì. In tranquillità. Cosa fai? Prendi quattro fialettine. Sì. In tranquillità. Sì. E le addormenti tutte e quattro. Sì, le quattro ragazze. E stacchi a tutte e quattro le teste. Ma come? E fai in tranquillità. Eh beh, ovvio. Una monotetta. Di modo che, in tranquillità, dopo averla accuratamente appesa al muro di fronte alla tua postazione di lavoro, certo, in tranquillità, non guarderai più loro, ma guarderai la monotetta. Ma che soluzione è? È incredibile. Sono un genio. Ma genio di cosa? Lei è un cretino. Sono veramente un genio. Ma genio di che? Scusami. Sono o non sono un genio? Ma guardi, io ho dei seri dubbi sulla sua genialità. La monotetta è incredibile. Certo. Cos'è il segno italiano questo? Bravo. Sigla. Ma aspetti un attimo, sta cantando Enrique. Enrico, basta dirgli di smettere di cantare, lui smette, cioè non è che ci vuol tanto. Provi? Enrico, piantala. Come? Sigla. Lo so di 105. Senta, c'è qua un tecnico, credo, di internet. Scusi, mi dica. Lei non lo sa che tutti gli artisti vengono a cantare dal vivo nel mio programma? Ma certo. Quando quel deficiente che c'ha in regia schiaccia play, quelli cominciano a cantare. Non è che parte il disco, eh? Ah, sono lì dal vivo? Certo, ma scusi, che domande fa? C'è qua un tecnico di internet, credo, che le vuol fare due domande prima di chiudere. Buonasera. Venga qua però, perché non può parlare. Pronto, così. Pronto. Salve, no, si sente qui? Sì, si sente. Questo qua. Veloce, che siamo in ritardo. Signor Jimmy, buonasera. Senta, visto che è in ritardo, volevo chiedere una cosa. Lei sa le lingue? Sì. Mi può dire al sito Hardcore con l'H davanti se è il sito del Cavaliere? Ma no, è Hardcore! È la casa del Cavaliere! Ma no! Mi sembrava un po' strano perché c'erano delle figure strane. Ma quella. Che? Ma no, ha sbagliato! Senta! Lei che sa tutto, cosa vuol dire fisting? No! Senta, ma vada. Sono un po' ignorante, io, mi scusi, vada sul sito di qualche altra cosa. Senta, www.bimbumbam.it, vada! Bim bum bam. Almeno vede qualcosa che capisce. Certo. Andate, vede, cretini, dai. Ci sentiamo domani alla stessa ora. Lo Zoo di 105 torna domani alle 16 ignoranti, su Radio 105. Altre domande? Ma cosa vuol dire largi e bondagli? Vuol dire che devi stare a casa. Non è vero. 105 per la carta di credito, accesso a internet, eccetera. Ci sono un po' di novità. Poi, come sempre, come ogni mese, su un giornale che io amo, hanno diviso in numeri una serie di cose, ne parleremo tra poco. E poi, attenzione, è possibile scoprire qual è il tuo carattere in base alle dimensioni, alla forma del tuo Maori. Hai capito? E poi spiegheremo come funziona questa cosa. E quindi? E quindi io ho dei problemi, avendo una X. È certo che ha dei problemi. Non c'era nelle lei. No, lei non c'ha carattere. Cos'è sto rumore? Ah, Auguri Mazzoli. Basta. È finito il mio compleanno. È veramente incredibile. Non voglio neanche raccontarle come ho trascorso il mio Capodanno. Ma chiuso in casa, Capodanno, spero. Sì, compleanno, Capodanno. Ma sono già arrivato al Capodanno io. Lei non ci arriva Capodanno. Smetta. Non si preoccupi, non abbia di questi timori. Senta, a proposito, vabbè che lei oggi è un po' così. Però io devo farle un piccolo appunto, sa? Ho scoperto il suo numero di portatile. E ieri, quindi? Ieri sera l'ho chiamata. Ero spento. Era spento, esatto. Mi ha risposto. Festeggiando. Esatto, mi ha risposto la segreteria telefonica che non mi è piaciuta. Sarà la mia. Sì, esatto, la sua. Non c'è la mia voce però della mia segreteria. Esatto. L'ha notato? L'ho notato, però è una cosa veramente scandalosa quella che ho sentito nella sua segreteria. Dopo chiamiamo, Ah sì? Sì, fa veramente schifo. E chi se ne frega? Senta, so che dobbiamo pubblicizzare un prodotto che è in costante crescita. È arrivato. Sta arrivando. Arriverà. Chi? Il nuovo millennio. Eh? E quindi. E quindi? Ah! Ehi, hey, lo spot della Jimmy Carr ti ha preso bene? Ti ha colpito talmente tanto che ne vuoi una subito? Oh. Jimmy Carr è pronta! Jimmy Carr è pronta! Jimmy Carr! Pronta a farti godere ogni volta che ci salirai! No, non in quel senso! Jimmy Carr esiste nei modelli guardrail. Per quelli che non hanno voglia di guidare e percorrono molti chilometri, sì? Un gancio speciale ideato dagli scienziati tedeschi della Multistrunz si aggancerà al guardrail dell'autostrada, sì? E vi porterà a destinazione, permettendovi di dormire sonni tranquilli. Ma come? Il modello Antica Roma. Per quelli che si sentono tradizionalisti, per quelli che amano le cose storiche, il modello Antica Roma è a forma di arena romana. Con piccole bighe al posto dei sedili, una mini colonna romana al posto del cambio e il leone gonfiabile sul sedile posteriore, per sentirti un antico romano a tutti gli effetti. Jimmy Carr. Presto nel modello Boeing 747, perché si sente pilota dentro. Ma come? Quanto è grande il modello Boeing 747? Dove lo posteggi a Milano? Mi risponde per favore. Ci vorranno due piloti per guidarla. Ma va bene anche in città? Assolutamente sì. Con le vie larghe che abbiamo in Italia ce la facciamo sicuramente. Certo. C'è Kim Lucas nello zoo. Colino giupiciù. Samuele Bersani, che è un po' che non sentiamo, eh? Sai che fine ha fatto? Lei non è il suo produttore? Troviamo un posto per sì. Oggi è veramente andato male. Mi scusi, Mazzoli, ma lei è veramente incredibile. Certo. Ma lei scusi, auguri Mazzoli. Ancora. Era ieri. E lei mi manda lo sfumato, lo champagne, le meretrici, io cosa devo fare? Senta, io vorrei discutere con lei di sta storia delle meretrici. Perché io ho il suo numero di portatile. È impossibile, non c'è nessuno, neanche mio padre. 0338 62 7776. E adesso lo chiamiamo in diretta. Non è possibile. Giba, per favore, manda in onda la segreteria telefonica di questo barbone. Aspetto il telefono. Vai, per favore. Vai, Giba. Team, servizio di segreteria telefonica. Allora? Attendere, prego. Attendiamo. Ciao, tesoro. Hai voglia di farti scaldare le Ma chi è? Dalla mia lingua vellutata vuoi farti una bella con abbondanti da parte tua e da parte mia. Certo. Io ti farò godere da impazzire. Sono una bollente, bellissima, spudorata femminile, giovane, certo, transsex italiana, con la quarta misura di seno, stancabile, io dalla terra in giù delle mie gambe, che potrai gustare in tutta la sua consistenza. Basta, Mar, per favore. Ma lei si rende conto? Devo lasciare un messaggio? No, è il suo. Ah, è il mio? Ma non si vergogna? Ah, ecco. Ah, ho capito! Cosa? Sono le meretrici, gli ho detto, prestami il telefono, devo fare una telefonata! E quindi? Fai uscire l'animale che c'è in te, con... Lo so di 105! E quindi? Lo sapevo che mi mettevano il telefono! Vieni su, da lì! Ancora! Il telefono, vieni! Ah, è incredibile! Che bella sta canzone! è un po' da giornata uggiosa come quella di oggi, però non esiste stare al lavoro davanti a una scrivania o un computer. Bello passarla magari in casa con la copertina, bello il caldo, vero? Appunto. È ancora ubriaco? È incredibile. Quindi posso insultarla tranquillamente, oggi non reagisce. Adesso non esagerare. Senta, sono contento perché ho buttato un occhio sulla sua email. Adesso ne è rimasto uno. jimmybarbone@hotmail.com. E quindi? È pieno di messaggi, sono contento, funziona. Sono contento per lei più che altro. E chi se ne frega? Lei è un bastardo. Senta, vuol giocare con me a Mugisce Vinci? Cosa fa? Mugisce Vinci. Esattamente. Attenzione italiani, si gioca gioca al gioco. Mugisce Vinci. Svegli Jimmy, basta. Mi dà un moment. Non ce l'ho adesso. Cosa fa? Ma che bastardo. Allora, attenzione, chiameremo Cagliari per cominciare, poi Milano. Vi ricordo che il muggito deve essere artistico per partecipare poi al premio finale della settimana offerto da www.taizu.com. Muggisci e vinci in corsa. Sei messo? Ciao Barboni! E allora? Ma come cavolo sei messo? Sono in piedi. Tu sei rovinato, in piedi ma rovinato. In piedi sono rovinato veramente. Porto il collare. Sì, il guinzaglio anche. È impazzito. Massimo! Sì! Da Cagliari, giusto? Sì. È un peccato per Cagliari, per colpa tua, succederà un disastro, vabbè, ma sono cose che succedono, insomma, si sa, no? A fine millennio. Sì. Siamo tutti avanti. Non parliamo di quel Boeing 747, non ne parliamo, no, dai. No. Perché parlare di queste cose tristi? Parliamo dei barboni. Ecco, parliamo di te. O di Jimmy. Senti, bell'uomo, io ti regalo la maglietta di 105, Sì. E se la giuria sarà magnanima nei tuoi confronti, parteciperai anche tu venerdì. Volevo fare gli auguri a mia madre. Anche lei fa gli anni? Sì, oggi. Ma dai! Giovanna! Auguri Giovanna, amore mio. È una donna della missione oppure no? Sì, sì, è della missione. È della missione, fa preciso. Parte di noi. Va bene, ciao bastardo. Ok, bastardo. Ciao, Barbone. Ciao, Barbone sarai te. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Andiamo a Milano, attenzione. Mugisce e vince in corsa. Che messaggi ci sono nella sua email, signor Jimmy? La tristezza. Attenzione, Milano in corso. Mamma, mamma! Ciao amore! Ma vieni! Non si spacca più la campana. Ma come stai mai? E tu, tipa, come sei messa? Sto messa molto bene. Cosa stai facendo? Questo tempo così uggioso. Hai bevuto anche tu? Certo, bestia proprio. Hai festeggiato per me? Certo, io ieri ti ho chiamato, ma tu non mi rispondi mai. Non t'ho caccato di striscio, amore. Niente, no, proprio. Scusami, sei proprio un maleducato. Sono un barbone, lo so. Sono un barbone nasone, Donatello anche, vero? Patrizia. Ma dici tanto di questo naso? Ma com'è? È così orrendo. Come parli? Amore, questa tua voce così strana mi ha fatto scattare una roba. Ma non è possibile. Lo so, succede. Cioè, a me la voce di una donna, sai com'è poi la X così, quindi astinenza per anni e anni. Patrizia. Sei messo così male, dai. Patrizia! Scatto la metamorfosi! Ciao Patrizia! Ciao! Come stai? Bene! Dimmi qualcosa di dolce, Patrizia. Potresti venirmi a trovare ogni tanto. Dove sei in questo momento? Anzi, come sei in questo momento, Patrizia? Lascio tutta la tua immaginazione. Oddio! Ma se io, Patrizia, con 7 H attaccate in fondo. Cosa c'entra l'H? È l'H, Patrizia. Se venissi a casa tua, tu cosa faresti, amore? Dipende. tutto di più. Oddio! Torniamo normali che meglio, Patrizia. Vedremo se anche tu parteciperai al gran premio finale del Mugisce Vinci. Ti bacio, ti mando la maglietta di 105. È stato fantastico. Grazie. Vado un attimo in bagno. Ciao. Ciao. Almeno una volta nella vita avete appeso un poster dei Duran Duran di Simon Le Bon dietro l'armadio. Io ci tiravo le freccette, ero un po' invidioso da piccolo, non per il successo. Cioè tutti cagavano loro, non cagavano mai me. Allora io... Bastardo. Cosa c'è ancora in linea? Non c'è tempo, non c'è tempo. Non c'è tempo per far cosa? Lanciare le freccette Duran Duran? Non c'è tempo, non c'è tempo. Non c'è tempo per cosa? Incredibile, appena ha chiamato la protezione civile. Quindi? Ha chiamato mio amico miliardario Luca, incredibile, ormai mi chiamano anche gli altri per dirle le battute in onda, incredibile. E quindi? Ha detto che siccome c'è maltempo non ci sono più uomini. E quindi speriamo che lei non sia male, perché sennò se viene la freddura è finita. La smetta. Non è vero, guarda che il mio naso è piccolino, la fine, normale. Senta, tra poco parliamo di questa cosa incredibile che ha inventato una società americana e si chiama True Face ed è un sistema indispensabile per quelli come me che si dimenticano, non so, il codice d'accesso al telefonino, a internet, per il bancomat, la carta di credito, eccetera. Un'invenzione incredibile, ne parliamo tra poco, va bene? Contento? È veramente incredibile. Che cosa? Benvenuti nello Zoo di 105. Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105. Jimmy. Mugisci e vinci su Radio 105. Chiameremo Messina per cominciare, poi Salerno. Attenzione, attenzione, Mugisci e vinci in corso. Mi raccomando. C'è una bella foto sul sito di Taizumi, troppo carina, con la cravatta ammucata. Fate un giro. www.tiezo.com. Messina in corso, attenzione, ascolta Torre. Pronto? Pronto? Sì? Sì, buongiorno. Oh, mamma, sì, chiudi il telefono. No. Hai fatto mamma, metti giù il telefono. Ma vieni, no. Giorgio! Dai, ce l'hai fatta lo stesso, non è colpa dai, tua. No, mi dispiace, non è come valida. No, giuria, dai. Se lui faceva subito mu, ma dopo la risposta. No, ha detto mamma, metti giù il telefono mu. No, ha fatto mu, no, mamma, metti giù il telefono. Allora dobbiamo guardare la moviola, mi spiace, ma. Che moviola? Bisogna vedere. Dai, arbitro, per favore. Dai, per favore. Dai, poverino. Non si può far niente, a meno che. A meno che non mugisca fino alle. A meno che, non so, un assegno circolare. Ma che assegno circolare? Ascolta, Giorgio. Dai, 45 minuti non sono tanti. Devo aspettare? No, non è che devi aspettare. Inizia a muggire adesso. Noi ogni tanto tiriamo su il cursore del telefono. Se stai ancora muggendo fino alle 6. Ah, vabbè. Vinci tutto lo stesso. Dai, ce la puoi fare. 45 minuti sono veramente niente, no? Tutto gonfiato. Dai, parti adesso. Dai, inizia a muggire, dai. Ok, perfetto. Ci sentiamo ogni tanto, eh? Tu resta lì, continua a muggire, bravo. Andiamo a Salerno intanto. Poverino, poverino. Secondo me aveva muggito e aveva vinto, comunque. Se la mamma si è messa di mezzo non è colpa sua, dai. Quanto siamo disonesti. Andate a vivere da soli, allora. Vabbè, certo. Salerno in corso, attenzione. Cretino. Dai, mucchina mia. La mia soddisfazione. Forza Salerno. C'è. Non c'è. C'è. Non c'è. Beh. Non suona. Riproviamo, ok. Che pazienza. Vi do intanto un numero verde per partecipare a Mugisce Vinci. 1678 26044. C'è la fantastica Elena, detta la bionda, al centralino. Che c'è? C'è o non c'è? C'è. Attenzione. Vieni amore mio, lo sapevo che era la mia soddisfazione lei. Ciao tesoro. Jenny? È caduta. Ma chi è? Ah, è ancora l'altro. Giorgio. Ci sono sempre qua. Un casino. Jenny. Uè. Amore mio. Tesoro, come va? Salernitana, devi essere troppo caliente tu, vero? Sì, è tu, non lo sai, c'è un sangue caliente. Amore, guarda, è perché siamo in ritardo, sennò veramente scattava la metamorfosi e facevamo veramente una cosa incredibile, però non posso, non posso adesso. Perdonami. Tutte le notti e adesso come faccio? Mi hai sognato tutte le notti? Sì, tutte. E come eravamo? Eravamo io, te sì. E il tuo naso. Sì, cioè, quello non manca mai. Quello non può mancare, certo. E cosa facevo col mio naso? Mi facevi tanto sorriso. Ah, ecco, ok, preciso. Amore, ti mando la maglietta di 105 e parteciperai anche tu al gran premio finale del Mugisce Vinci. Ok. Un bacio. Ciao amore, ciao, sentiamo Giorgio? Giorgio? Sì, Marco. Vai avanti, eh? Ancora, sì. Fino alle 6, mancano 3/4 d'ora. Vai. Ok, preciso. Ciao. 105. Penso che svegliarsi alla mattina sia una cosa eccezionale. Si spera, no? Di svegliarsi, dico. E penso che dormire fino a tardi altrettanto straordinario, lavoro permettendo ovviamente. E anche che posso andare avanti, stare bene, essere felice come single. A volte sì. Ma posso anche stare bene, essere felice con tre uomini ed un cane. In un paradiso artificiale. Attenzione. Le TLC, che belle loro! Ci fecero impazzire con la canzone che si chiamava Waterfall un sacco di tempo fa e continuano a farci impazzire con Fan Mail. A proposito di bellezza interiore, esteriore, eccetera, attenzione, perché pare sia possibile riconoscere il proprio carattere in base alla forma del vostro... Maori, chiamiamolo così, no? Se non volete essere colti in fallo proprio sul più bello, mostrando i vostri lati psicologici più deboli, cercate... Hai giochi di parole? Perché? Ah, per il fallo? No, non faccio giochi di parole. Ecco, cercate di non esibirlo con sfrontatezza, come fa tipo Ringo, che ogni volta che viene in radio... O Toni Severo, eccetera. Allora, dimensioni a parte, pare che i sessi maschili siano catalogabili in 8 categorie. Per esempio, un uomo con il... tipo chiodo, cioè dai, si capisce, no? La forma del chiodo, no? Ha presente, no? Come è fatto un chiodo? Ecco, sia una persona rude e determinata, mentre gli uomini con il a matita, ovvero sottile, eccetera, sono persone molto sensuali ma idealiste. E insomma, ci sono una serie di altre tipologie, insomma, di uomo. E tra l'altro c'è un libro che si chiama Genitology Reading the Genitals, che dedica una sezione anche ai genitali femminili con disegni e indicazioni per scegliere la donna più compatibile. Hai capito? Jimmy? È incredibile! Cosa? E senta, e invece lei con quella X come fa? Non c'è scritto niente sull'articolo. Non l'hanno catalogata? No, purtroppo no. È veramente incredibile, strano. Lei ha una definizione per quelli che hanno la X? Sì, sono una marea di barboni. E siccome ce n'è solo uno, veda lei. Sono già là io. Tra un po' in concerto al Forum, i Red Hot Chili Pepper, sono già là, dormo là da adesso fino a quando inizia. Non è una brutta idea, eh? Immaginavo. Si chiama Scar Tissue, Red Hot Chili Peppers su Radio 105. Attenzione, sei in macchina, sei annoiato, sei triste, la smetti? Non sai cosa fare stasera perché il tempo fa veramente schifo, ma proprio schifo. E allora accendi le orecchie. Nonostante mi costi una miliardata al mese? Nonostante mi costi così poco? Per lei è poco. Salve Jimmy! Come va? Ah. È ancora un po' ubriaco. È veramente incredibile. Lo so. Auguri Mazzoli. Auguri, era ieri il mio compleanno, la smetta. Senta, sì. Dopo parliamo dell'angolo di Jimmy, eh? Ah, certo. Ha sì. Un argomento veramente importante. Ecco, le ha scritto qualcuno? Sì. Senta, come sta andando sta mega radio che sta organizzando in tutto il mondo? Sto facendo dei provini, anzi oggi, aspetti che cade tutto. Ieri ho sentito il disgioco del pomeriggio, sinceramente mi faceva un po' schifo, eh. Di Gigi? Me lo fa sentire? Cretino? Sì. Lo chiamo per nome, scusi. Cioè... Vieni qua. Vieni. Un provino, un pezzettino. Ciao, Marco. Ciao, Gigi. Sono di Gigi. Faccio il primo, Gigi, che ti ascolta. E come si chiama? Pomeriggio 5. Come? Pomeriggio 5. La voce è un po' strana però, Jimmy. Ma è cretino, veramente un cretino. Senti, non ho tempo da te, oggi devo provare la voce ufficiale della radio. Sentiamo un po'. Sì, perché qua Radio Jimmy deve partire, qua ragazzi, è incredibile. Sentiamo la voce ufficiale. Allora sei pronto, devi dire solo lo slogan. Sono pronto. Vai. Stai ascoltando Jimmy Network. Che bella voce, precisa. Ma cos'è sto schifo? Ma come? Ma è possibile che non c'è uno che ha la voce uguale alla mia, simile, che possiamo fare la voce ufficiale della radio? Stai ascoltando Jimmy Network. Ecco, così che lo vedo bene. Fa schifo. Senti che suona meglio. Quindi, assunto. Senti, ma ha detto che aveva esperienza, ragazzo, in altri network. Ah sì, dove allora ha lavorato? Dove ha lavorato? Ma che ne so, non me ne frega niente. Senti, allora va bene. Sì, rifallo un attimo così. Jimmy Network. Senti, firma qua. Ma firma. Come? Ma fa schifo così. Firma, firma. Grazie, grazie. Firma. Quanto le dà? Io 10 miliardi al mese, va bene. Come? 15. Vabbè, basta che firmi. Credito, vai, vai. Non è che è una particina anche per me, Jimmy? Sì, ha una lucina rossa? Sì, ne trovo una in radio. Perché mi serve il puntale per l'albero di Natale. Bastardo. Lei è un bastardo. Devo fare io l'albero di Natale? No, la uso solo come puntale. Ah, certo. Se lo vorrei fare. Ha già fatto. Kiss me on the left. Kiss me on the right. Nine. Salve Jimmy. Put your fingers through my hair. Questo file è stato scaricato dal canale Telegram Zoo di 105 Channel. Per altro materiale, cerca su Telegram Zoo di 105 archivio bot. Oh, wow, wow, wow, wow, wow, wow. All that you Alanis Morissette, Head Over Feet, su Radio 105 in diretta in tutta Italia. Ormai sono convinti anche gli ascoltatori che oggi sia il mio compleanno, infatti auguri Mazzoli, ecco, sono Alan. Ma porca miseria. Grazie a Matteo che mi chiama Super Donatello detto X. Vorrei salutare Massi e il Trans, Matteo. Poi salutiamo Giada dalla Spezia, Monica. E quindi? Da Grosseto, Emiliano di Milano, Flo, poi Silvia e Sonia. Manda la sigla, non lo sopporto più quello lì. Ma chi? Con chi ce l'ha? Bina. Manda la sigla, Bina. Mandala. Cinzia. Ma sto parlando. Ciao a tutti, io sono Giorgio Mastrota, volevo dire che devo veramente tutta la mia carriera a Jimmy. Jimmy, devo salutarlo, devo tutto a lui. È lui il grande scopritore di talenti commerciali. No. Ciao, sono Kay Rush. Ciao, Kay. Anch'io devo il mio successo a Jimmy. Hi Jimmy, this is Bill, Bill Clinton. Ciao, sono Alexia e anch'io devo il mio successo a Jimmy. È una vergogna. Benvenuti nell'angolo di Jimmy! È una vergogna! Saluti i suoi ascoltatori! Ciao! Ti senti? Mi sembrava che mancasse un pezzo! Mi scrive! Sì! Una ragazza! Mm? Che mi dice? Come si chiama la ragazza? Non si firma! Ah, perfetto, anonima! Fa bene a non firmarsi, okay. E adesso le spiego anche perché. Sentiamo! Sono molto triste, depressa, frustrata, incavolata. Sa perché, venerabile Jimmy? Come? Cosa è successo? Perché sono milanista. Aia, visto ieri sera. E quindi dopo la figuraccia di ieri ha fatto bene a non firmarsi. Ecco. Ma non ti preoccupare. Perché? Cosa perché cosa io aggiunge? Una settimana fa, in tranquillità, sì? Mi sono recato nella sede del Milan in via Turati. Sì? Ho parlato con il cavaliere. Il cavaliere lui proprio? Silvietto. Sì, Silvietto. Ciao Silvietto. Ma che ciao Silvietto? In tranquillità? Sì. Ti ho detto. Cosa? Dammi la squadra. Ma come? La voglio. Quindi? Non so più dove mettere i soldi. E quindi? Lui in tranquillità mi ha guardato e mi ha detto: firma il contratto. Ma come? Gliel'ha venduta? Sì. Gli ha venduto il Milan? Assolutamente. Ma non è possibile. Mi ha venduto tutto, anche tutte le 10.000 sciarpe che aveva in casa. Tutto, le bandiere, tutto. Adesso mi tocca prendere tutto. E quindi? E quindi tranquillità. Ho firmato il contratto. Sì. In tranquillità. Ma sabato c'è una partita importante poi. Sì, ma la mia presidenza cominciava ieri, proprio alla vigilia della partita. E casualmente ha perso il Milan. Berlino. Quindi? In tranquillità, sì. Io ho preso le redini della presidenza. Ma il problema è che io in tranquillità, sì? La presidenza della squadra, l'ho presa perché voglio che il Milan perda sempre. Ma come? Allora lei è interista? Assolutamente no. Allora posso dire che è una squadra che fa schifo? Ecco, come al solito deve dire le cose che deve dire. Cioè lei è interista, non lo vuole ammettere. A me il pallone non mi piace. Allora l'Inter fa veramente schifo, i colori dell'Inter fanno vomito, guarda. Ecco. Lei ha finito di vivere, conti fino a tre, come Kelly Guerriero. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha sesso colpirò uno dei suoi punti vitali. Cioè? Conti fino a tre è morto. Colpo dell'implosione. Uno, due, tre. Siamo arrivati alla fine, vero? Sono ancora vivo, sa? Il colpo di Ken non è ancora arrivato, sa? Sarà è benissimo. Perché devo perfezionarlo. Ecco. Andiamo a casa. Andiamo, sigla. Colpo degli artigli forati. Niente, guarda, non mi è arrivato è nulla. È incredibile. Non mi arriva niente. Colpo del nasone cretino. Niente, guardi. Deve essere il mio naso che mi difende. Colpa di Bazzoli. Va bene. Se ne vada. Ci sentiamo domani. Vi lascio con Planet Ringo. C'è Ringo pronto dallo studio 1, quello grande, quello serio, quello vero. Grazie a Gibba per la parte tecnica. Da Mazzoli è tutto. Grazie, Jimmy. Pronto? Auguri Bazzoli. Ancora, era ieri. Era ieri. Lo Zoo di 105 torna domani alle 16 su Radio 105. Lo Zoo di 105. Auguri Bazzoli. Era ieri.